La duchessa deve essere parentata con tutta quella gente, disse Françoise, riavviando la conversazione dai Guermantes di Rue de la Chaise, così come si riattacca un brano musicale dall'andante. Non ricordo più chi è che m'ha detto che uno di loro aveva dato in moglie al duca una cugina. Ah, in ogni caso è tutta la stessa parentesi. Una gran famiglia i Guermantes, aggiungeva con rispetto, fondandone la grandezza al tempo stesso sul numero dei suoi membri e sullo splendore della sua gloria, così come Pascal la verità della religione sulla ragione e sull'autorità delle scritture. Disponendo di quest'unica parola, grande, per entrambe le cose, le sembrava che esse ne formassero una sola. Il vocabolario di Françoise, come certe pietre, presentava qua e là un difetto che proiettava la propria ombra sin dentro il suo pensiero. «Mi domando se non sono costori che hanno il castello a Guermantes a 10 leghe da Combré. Allora saranno parenti anche della loro cugina d'Algeri». «Ci chiedemmo a lungo, mia madre ed io, chi potesse mai essere questa cugina d'Algeri». Ma alla fine ci rendemmo conto che nominando Algeri, Françoise intendeva riferirsi alla città di Angers. Ciò che è lontano può esserci più noto di ciò che è vicino. Françoise, mentre conosceva il nome di Algeri per via di certi disgustosi datteri che ricevevamo in dono a Capodanno, ignorava quello di Angers. Il suo linguaggio, come la stessa lingua francese e in particolare la sua toponomastica, era disseminato d'errori. «Volevo parlarne al loro maggiordomo. Com'è che lo chiamano?» Si interruppe come ponendosi un problema di protocollo e si rispose da sola «Ah, sì, lo chiamano Antoine!» Quasi che Antoine fosse un titolo. «Lui sì che avrebbe potuto spiegarmelo, ma è un vero signore, un gran pedante. Si direbbe che gli han tagliato la lingua o che non ha mai imparato a parlare. Non vi dà nemmeno risposta quando gli parlate», proseguiva Françoise, che diceva «dare risposta come Madame de Sévigné». «E poi», riprese in perfetta malafede, «sapendo cosa bolle nella mia pentola, non mi occupo certo di quelle degli altri». «In ogni caso non è cattolico e non è neanche un uomo coraggioso». Questo apprezzamento parrebbe denotare in Françoise un mutamento d'opinione circa il coraggio, che secondo lei a Combré abbassava gli uomini a livello di bestie feroci. Ma non era così. Coraggioso significava semplicemente lavoratore. «Dicono anche che sia più ladro di una gazza. Ah, ma non bisogna dare sempre retta alle chiacchiere. Qui, per colpa della portineria, se ne vanno via tutti. I portinai sono gelosi e montano la testa alla duchessa. Ma si può ben dire che è un vero scansafatiche quell'Antoine e la sua Antoinesse non vale più di lui», concludeva Françoise, che di sicuro, per trovare al nome Antoine un corrispettivo femminile capace di designare la moglie del maggiordomo, s'era inconsciamente ricollegata, nella sua creazione grammaticale, a Chanoine e Chanoinesse. Né si sbagliava in questo. Esiste ancora, nei pressi di Notre-Dame, una via che porta il nome di Rue Chanoinesse, attribuitele, in ragione del fatto che era abitata soltanto da canonici, da quei francesi del tempo andato di cui Françoise in realtà era contemporanea. Un ulteriore esempio di questo modo di formare femminili veniva d'altronde subito dopo, quando Françoise soggiungeva «Quel che è sicuro, sicurissimo, è che il castello di Guermantes appartiene alla duchessa. È lei in paese la signora sindachessa? Ed è qualcosa, no? Credo bene che sia qualcosa», interveniva con convinzione Lacquet, al quale era sfuggita l'ironia. «Tu pensi, ragazzo mio, che sia qualcosa? Ma per gente come costori, essere sindaco e sindachessa è 3 volte niente. Ah, se fosse mio il castello di Guermantes, non mi si vedrebbe spesso a Parigi. Decisamente bisogna che dei padroni, della gente che ha del loro come il signore e la signora, abbiano le loro idee per restare in questa miserabile città invece di andarsene a Combré, liberi come sono di fare quel che vogliono e con nessuno che li trattiene. Ma cosa aspettano a mettersi in pensione, visto che non gli manca niente, d'essere morti? Ah, se solo avessi del pane secco da mangiare e della legna per scaldarmi d'inverno, sarebbe da un bel pezzo che me ne starei a Combré nella casetta di mio fratello. Là, almeno, ci si sente vivere. Non si hanno tutte ste case davanti. Rumore ce n'è così poco che di notte si sentono le rane cantare a più di 2 leghe di distanza. Deve essere proprio bello, signora, esclamava con entusiasmo il giovane Lacquet, come se quell'ultimo particolare fosse caratteristico di Combré tanto quanto lo è di Venezia il passare la vita in gondola. D'altronde, da meno tempo in casa rispetto al cameriere, il Lacquet sceglieva con Françoise non gli argomenti che lo interessavano, ma quelli che potevano interessare a lei. E Françoise, incapace di reprimere una smorfia quando la si trattava da cuoca, nutriva per il Lacquet, il quale parlandone diceva la governante, la speciale benevolenza che certi principi di second'ordine provano nei confronti dei giovani ben intenzionati da cui si sentono dare dell'altezza. Perlomeno si sa quel che si fa e in che stagione si vive. Non come qui, che a Pasqua non si vedrà uno straccio di botton d'oro, neanche fosse Natale, e non riesco a sentire un briciolo d'Angelus quando tiro sulla mia vecchia carcassa. Laggiù si sentono tutte le ore. È solo una vecchia campana, ma intanto ti dici: ecco che mio fratello torna dai campi, vedi il sole che scende, è per i beni della terra che si suona e hai il tempo di accorgerti di quel che succede prima d'accendere la lampada. Qui, faccia giorno o faccia notte, si va a dormire che non si saprebbe nemmeno dire cosa si è fatto, come le bestie. Dicono che anche Meseglì sia molto bella, signora, interloquiva il giovane Lacquet, dato che per i suoi gusti la conversazione stava diventando un po' troppo astratta e lui, per caso, ricordava d'averci sentito parlare a tavola di Méséglise. «Oh, Méséglise!» diceva Françoise con il largo sorriso che sempre le spuntava sulle labbra udendo i nomi di Méséglise, di Combré, di Thionville. A tal punto facevano parte della sua esistenza quei nomi che incontrandoli all'esterno, ascoltandoli in una conversazione, provava un'allegria non troppo dissimile da quella che un professore suscita nei suoi allievi, alludendo a un personaggio contemporaneo il cui nome non si sarebbero mai aspettati di sentir proferire dall'alto della cattedra. Il piacere di Françoise era cresciuto dalla sensazione che quei paesi fossero per lei qualcosa di diverso da ciò che erano per gli altri, vecchi compagni con i quali se ne son fatti di tutti i colori, e sorrideva loro come se li trovasse pieni di vita, perché vi ritrovava molto di se stessa. Sì, puoi ben dirlo, figliolo, è piuttosto bella, Meseglise, riprendeva con un risolino arguto. Ma com'è che ne hai sentito parlare tu di Meseglise? Com'è che ho sentito parlare di Meseglise? Ma è famosa! Me ne hanno parlato e anche spesse volte, rispondeva quello con la criminosa inesattezza degli informatori, i quali, ogni volta che cerchiamo di renderci obiettivamente conto dell'importanza che può avere agli occhi degli altri qualcosa che ci concerne, ci mettono nell'impossibilità di riuscirvi. Ah, ve lo garantisco io, è meglio là, sotto i ciliegi, che davanti ai fornelli. Persino Eulalie arrivava a parlare come di una brava persona. Infatti, da quando Eulalie era morta, Françoise aveva completamente dimenticato d'averla poco amata in vita, come amava poco, del resto, chiunque non avesse niente da mangiare a casa sua. Chiunque, morto di fame, venisse poi, da perfetto buono a nulla, grazie alla bontà dei ricchi, a fare smancerie. L'idea che Eulalie avesse saputo con tanta abilità ogni settimana spillar soldi a mia zia, non la faceva più soffrire. Quanto alla zia, da parte di Françoise, era un ininterrotto cantarne le lodi. Ma è giusto a Combré, allora, da una cugina della signora che eravate in casa? Si informava il giovane lacchè. Sì, da Madame Octave, una santa donna, miei cari ragazzi, e dove c'era sempre di che, e del bello e del buono. Una brava donna, potete ben dirlo, che non compiangeva né le pernici, né i fagiani, né niente. Che potevate capitare a pranzo in cinque, in sei, non era certo la carne che mancava, e di prima scelta anche, e vino bianco, e vino rosso, e tutto quel che ci voleva. François usava il verbo compiangere nello stesso senso in cui lo usa la Bruyère. Tutto sempre a sue spese, anche se la famiglia restava lì dei mesi, degli anni. Riflessione nella quale non c'era niente di scortese nei nostri confronti, perché Françoise apparteneva a un'epoca in cui l'espressione «a spese» non era riservata al linguaggio giudiziario e alludeva semplicemente alla spesa. «Ah, vi garantisco che non s'andava via con la fame di là. Come ci ha fatto notare parecchie volte il signor curato, se c'è una donna che può star sicura ad andare accanto al buon Dio, potete giurarci che lei». «Ah, povera signora, la sento ancora che mi diceva con quella sua vocina: Françoise, lo sapete, io questo non lo mangio, ma voglio che sia buono per tutti proprio come se mangiassi». «Certo non era mica per lei. L'avesse vista, non pesava più di un cartoccio di ciliegie, non le restava più niente. Non mi voleva credere, non voleva mai andare dal medico». Non era certo una casa dove si mangiava come vien viene. La signora voleva che la servitù fosse trattata bene. Qui, anche stamattina, non si è fatto nemmeno in tempo a mandar giù il boccone. Si fa tutto di volata. Ad esasperarla erano soprattutto le fette di pane abbrustolito che mangiava mio padre. Era convinta che lui le volesse apposta per darsi importanza e per farla ballare. «Quel che posso dire», approvava il giovane lacchè, «e che non ho mai visto niente di simile». Lo diceva come se avesse visto di tutto e gli insegnamenti di un'esperienza millenaria si estendessero in lui a tutti i paesi del mondo e alle loro usanze, fra le quali quella del pane abbrustolito non figurava da nessuna parte. «Sì, sì», brontolava il maggiordomo, «ma potrebbe cambiare tutto quanto. In Canada gli operai stanno per scendere in sciopero e il ministro l'altra sera ha detto al signore d'aver intascato per questo 200.000 franchi». Il maggiordomo si guardava bene dal biasimarlo, non perché non fosse lui integerrimo, ma perché, ritenendo corrotti tutti gli uomini politici, la concussione gli sembrava un reato meno grave del più lieve dei furti. Non si chiedeva nemmeno se, per caso, avesse frainteso quella storica frase, né lo colpiva l'inverosimiglianza del fatto che proprio il colpevole l'avesse rivolta a mio padre senza vedersi per questo mettere alla porta. Ma la filosofia di Combré precludeva a Françoise ogni speranza che gli scioperi del Canada potessero ripercuotersi sull'uso delle fette biscottate. «Finché il mondo è mondo», diceva, «state pur certi che ci saranno sempre padroni per farci trottare e domestici per cavargli i capricci». A dispetto di questa teoria del trotto perpetuo, era già un quarto d'ora che mia madre, la quale probabilmente non applicava lo stesso metro dell'interessata nel valutare la durata delle colazioni di Françoise, si interrogava. «Ma che diamine staranno facendo? Sono a tavola da più di 2 ore». E suonava 3, 4 volte, timidamente. Françoise, il lacchè e il maggiordomo non sentivano quelle scampanellate come un richiamo, né di fatto gli veniva in mente di muoversi, ma come piuttosto i primi, sparsi accordi degli strumenti, quando un concerto sta per riprendere e si capisce che l'intervallo non durerà più che pochi minuti. Così, solo quando le scampanellate si infittivano e si facevano più insistenti, i nostri domestici cominciavano a prenderne coscienza e, stimando di non avere più molto tempo davanti e che la ripresa del lavoro fosse imminente, a un rintocco un po' più sonoro degli altri emettevano un sospiro e, decidendosi, e Lacchè scendeva a fumare una sigaretta davanti alla porta, Françoise, dopo qualche riflessione su di noi del tipo «È chiaro, oggi hanno il nervoso», saliva a mettere in ordine la sua stanzetta al sesto piano e il maggiordomo, procuratasi della carta da lettere in camera mia, sbrigava rapidamente la sua corrispondenza privata. Nonostante la spocchia del loro maggiordomo, Françoise era stata in grado di riferirmi, sin dai primi giorni, che Guermant abitavano in quel palazzo non per diritto immemorabile, ma in virtù di un contratto di locazione abbastanza recente, e che il giardino sul quale esso s'affacciava dalla parte a me ignota era piuttosto piccolo e simile a tutti i giardini contigui. E seppi infine che non vi si trovavano né patibolo feudale, né mulino fortificato, né luogo d'asilo, né colombaia a pilastri, né forno per la comunità, né granaio a navata, né castelletto, né pontificio levatoi, per non parlare di quelli mobili o a pedaggio, e nemmeno pinnacoli, tumuli o cartigli murali. Ma come la baia di Balbec, perduto il suo mistero, era divenuta per me una parte qualunque, intercambiabile con qualsiasi altra delle quantità d'acqua salata sparse per il globo, finché di colpo Elstir le aveva restituito un'individualità rivelandomi che era il golfo d'opale di Whistler con le sue armonie azzurro-argento, così il nome Guermant aveva visto crollare sotto le mazzate di Françoise fin l'ultima delle dimore che ne erano scaturite quando un giorno, parlando della duchessa, un vecchio amico di mio padre ci disse: «Ha la posizione più prestigiosa di tutto il Faubourg. La sua è la prima casa del Faubourg Saint-Germain». Certo, il primo salotto, la prima casa del Faubourg Saint-Germain, era ben poca cosa a petto alle altre dimore che avevo via via sognate. Ma in fin dei conti anche questa, e sarebbe stata l'ultima, per quanto umile, aveva in sé, al di là della propria materia, una differenziazione segreta.